Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati alla trasmissione Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che va a ricercare i protagonisti del Pioniere. E la settimana scorsa abbiamo incontrato Amedeo Gigli, che è un grande illustratore della divulgazione scientifica e di cui la redazione di Rodaris è largamente servito. Ma Amedeo Gigli ha un'orbita professionale ben più ampia, l'abbiamo ascoltata anche la volta scorsa, introdotto in particolare nel Pioniere ma anche in altri ambienti dallo sceneggiatore di fumetti nonché scrittore per ragazzi a Marcello Argilli. Comunque un personaggio che ha legato il suo nome a una editoria molto diversa, appunto dal Pioniere fino a Quattro Ruote. Esattamente, in questa seconda parte dell'intervista Amedeo Gigli ci racconterà del suo proficuo rapporto con Argilli, che è continuato anche con un lavoro fatto insieme sempre per i ragazzi in televisione e sempre con motivazioni di divulgazione scientifica. E la cosa anche straordinaria di Amedeo Gigli è vedere come il suo tratto, il suo fumetto fatto negli anni 50 fosse veramente straordinario, eccezionale. Oggi ci si domanda appunto come fosse possibile allora, con i pochi mezzi che c'erano, che ci fosse una qualità così alta del disegno, quindi forse anche un tipo di manualità che oggi magari si è persa. Devo dire che l'eccezionalità delle sue illustrazioni, che oggi ci appaiono come quasi impossibili da realizzare senza strumenti come il digitale, per esempio, comunque forse a lei non fa questo effetto, ma a noi rivedere quelle illustrazioni fatte negli anni 50-60, che sono assolutamente perfette, rimaniamo veramente stupefatti. Erano tutte a tempera, a mano, a rapittura pura, quei tempi, diciamo. C'è una perfezione incredibile, davvero, davvero. Sì. Diciamo che quando sono tornato da Milano anni 70, così c'era, ho trasferito il tutto al computer, perché anche dal punto di vista tecnico della riproduzione fotografica, il file del computer semplifica molto l'elaborazione, perché una tavola fatta a tempera su cartone va prima di tutto riprodotta fotograficamente al costo di centinaia di migliaia di lire a quei tempi, mentre il file oggi messo al computer del tipografo già produce le pellicole di stampa, per cui c'è prima di tutto proprio un vantaggio economico, e poi c'è una possibilità che prima era impossibile. Io portavo le tavole a quattro ruote da Roma con la mia Ritmo una volta ogni 15 giorni, me le pagavano rispettosamente, però dovevo fare il viaggio Roma-Milano ogni 15 giorni per quattro ruote. Quando oggi mando un file lo sa benissimo per internet, quindi c'è questa. Io l'unico problema che ho avuto, ma credo di aver risolto discretamente, è di portare nei file del computer, nel lavoro digitalizzato, la stessa freschezza o la stessa, diciamo, umanità tra virgolette, che era nelle tavole a tempera, capito? Questo mi dura ancora oggi, che ho fra un mese e mezzo 87 anni, per cui insomma. Ritorniamo un attimo a anni 60 a Roma, quindi lei lavorava anche per l'editrice San Paolo, la famiglia sì. cristiana, e allora è un periodo in cui lei, tra l'altro nella sua pagina Facebook, dice era il diavolo e l'acqua santa, lavoravo contemporaneamente, no, per lei, due… Lei usa una terminologia che io ho sempre usato, dico io sono l'unico illustratore italiano che abbia lavorato per il diavolo e l'acqua santa. Questo è proprio all'inizio, perché mentre facevo Famiglia Cristiana ho cominciato con il pioniere dell'Unità, che era l'organo ufficiale dei ragazzi del partito, del meraviglioso Partito Comunista. Tra l'altro lei a quell'epoca era del Partito Comunista. Ah, certamente. Io ho, diciamo, militato, se posso usare questa parola, per la sezione di Ponte Milvio, che fu poi la sezione di Enrico Berlinguer. Diciamo, la mia funzione era il stampa propaganda, l'agit prop. Ah, ero un agit prop. Allora, questo però diciamo… significa anche che se lei ha lavorato anche per la edizione di San Paolo, evidentemente lei era riconosciuto già allora come molto bravo. Sì, ma infatti, ecco, volevo, se permette, andare ancora oltre l'esperienza milanese per ritornare un attimo a Roma, al giornalino, per il quale, oltre alle illustrazioni che lei avrà visto senz'altro, e anche la storia dell'uomo, ci fu un episodio anche divertente da raccontare, perché una volta il direttore del giornalino, non mi ricordo quale don fosse perché si alternavano con una certa velocità, mi telefonò per dirmi che doveva farmi vedere una cosa. Io già per loro, come lei sa, come le ho raccontato, già collaboravo. Mi fece vedere come in Inghilterra facevano divulgazione scientifica, mettendomi davanti l'edizione inglese del mio lavoro. Allora io dissi, dico sì, do, guarda, va bene, sono bellissime, però hanno un grosso difetto. Quale difetto? Manca la firma. Perché quelle le ho fatte io, per cui loro traducevano i lavori che io ho fatto. Senza riconoscerle niente, immagino, perché non mettevano neanche la firma. Ma loro non lo sapevano, sapevano solo che venivano dall'Inghilterra, avevano comprato il diritto di riproduzione, sono stato io che da quel giorno ho preteso che ci fosse la mia firma, insomma. Politics and taxes and people grinding axes, there's no happiness. Zoom, zoom, zoom, zoom, rhythm lead the way. The future doesn't fret me if I can only get me someone to slap that bass. Happiness is not a riddle when I'm listening to that big bass pedal. Slap that bass, slap it till it's dizzy. Slap that bass, keep the rhythm busy. Zoom, zoom, zoom, misery, you've got to go. Slap that bass, use it like a tonic. Slap that bass, keep your philharmonic. Zoom, zoom, zoom, and the milk and honey will flow. Dictators will be better off if they zoom, zoom now and then. Today you can see that the happiest men all got rhythm. In which case, if you want a bubble, slap that bass, slap away your troubles. Learn to zoom, zoom, zoom, slap that bass. would be better off if they zoom zoom now and then. Today you can see that the happiest men, I've got rhythm, in which case if you want a bubble, slap that bass, slap away your troubles, learn to zoom zoom zoom, slap that bass. Oh, slap it, honey. That's right, walk it, walk it. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Slap that bass. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Entriamo nell'ultima parte dell'intervista di Morina Moretti ad Amedeo Gigli e l'illustratore, il grande divulgatore scientifico, continua a raccontare delle storie, le sue storie, che sono storie del nostro passato importanti, come per esempio quella che ci narrerà nell'ultimo spezzone di intervista su cosa era la TV e come si lavorava in televisione in certi anni, oppure per esempio alcune sue esperienze editoriali come un inedito calendario del 64 proprio disegnato per il pioniere. Tramite Marcello Argigli, che è stato sempre il mio tutor, potrei dire, mi propose di collaborare con questo genere di cose per la televisione, per cui io ho collaborato anni per la rubrica Il gioco delle cose, non so se l'ha mai sentito nominare, anni 70, per il quale facevamo la stessa divulgazione scientifica con i miei testi, però non utilizzando le illustrazioni, ma addirittura costruendo gli oggetti. Per esempio, come funziona il mulino a vento? Avevamo costruito un mulino a vento alto 3 metri, perché poi portavamo questo materiale, avevamo il furgone Volkswagen, io e un mio collaboratore che mi ha seguito a Milano ed è anche tornato a Roma quando io sono tornato a Roma, Roberto Terrinoni si chiama, bravissimo architetto, anche non laureato. Andavamo ogni 15 giorni a Napoli, alla sede Rai di Napoli, dove allestivamo. Per esempio, Marcello Argigli poi aveva sempre pure lui la mentalità del compagno, per cui avevamo fatto addirittura ricostruito la linea di montaggio delle automobili, dei motori. Una linea di fabbrica. Capire, sì, per far comprendere quanto fosse impegnativo per l'uomo, per l'operaio, quella ripetitività. Allora noi avevamo escogitato di mettere fra i pezzi che andavano montati, perché li montavano delle scolaresche napoletane che venivano convocate dalla RAI appunto per questa trasmissione, avevamo sistemato dei pezzi che non funzionassero in modo da far capire la difficoltà del discorso. Però prima di iniziare le riprese si faceva almeno un'ora di, chiamiamola, perdita di tempo per stabilire le inquadrature con il regista, l'illuminazione. Nel frattempo i ragazzi liberi giocavano con gli attrezzi prima ancora che venissero utilizzati per le riprese. Quando andammo a fare le riprese ci accorgemmo che i ragazzi scartavano già in partenza i pezzi difettosi. E allora noi chiedemmo, ma anche quelli, e chi, non funzionano? Ho capito? I chisti non funzionano, già hanno capito, per dire questi piccoli aneddoti, no? Le chiedo l'ultima cosa, che è questa. Lei ha realizzato un calendario agenda nel 1964, sì. Era la conquista dello spazio, sì. Che uscì con il pioniere. Di queste tavole, che cosa mi può dire? Com'è nata questa idea? Beh, si trattò sempre con Marcello Argigli, si pensò di fare un calendario, e io lo feci sullo spazio, quella è stata la mia iniziativa, perché a quei tempi lavoravo, non l'ho detto a lei, perché era tutto un altro settore, per Oltre il Cielo, la prima rivista italiana di fantascienza e astronautica, per cui io, diciamo, poi ho anche illustrato, ho scritto le didascalie per Verso lo Spazio, un volume, un grande volume illustrato per la Mondadori, per cui dal punto di vista dell'astronautica e dell'aeronautica ho avuto e ho ancora una grossa esperienza, anche una certa conoscenza, e tant'è vero che al Museo dell'Aeronautica Militare Italiana di Vigna di Valle ci sono 15 pannelli fatti da me sul 70%, montati su Forex, quindi rigidi, molto molto apprezzati, tant'è vero che proprio in questi giorni dovrò fare un'intervista come la sua telefonica con Rivista Aeronautica, che è la rivista ufficiale dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana, per cui diciamo quello è un campo di un altro tipo di affetto, che non è solo divulgazione scientifica, ma anche un po' approfondimento storico, eccetera, eccetera. Tutto molto lavoro, non tutto naturalmente, ma degli spunti per conoscere il suo lavoro si possono trovare nel suo sito e nella sua pagina Facebook. La seconda parte della nostra trasmissione invece cambia completamente scenario, cambia completamente ambiente e viene la Marvel Edizioni, che ha in serbo delle importanti novità nel panorama del fumetto attuale, ma che butta un occhio anche al passato. Per sapere di più e saperne soprattutto meglio, ancora una volta ricordiamo la trasmissione di Michele Pompei, Nino Gostu Fujiko, in cui nell'appuntamento del fumetto si incontra un personaggio importante nell'ambiente editoriale, nonché grande esperto del settore, Andrea Platti. Ascoltiamo appunto di questa novità della Marvel Edizioni. Mettiamo insieme due cose, una novità vera e propria, grossa tra l'altro, e un progetto che era già in corso in Italia, che è collegato alla fine, anche se i frutti li vedremo tra molto tempo forse. Allora, la novità, che è un po' un ritorno alle origini, possiamo dire che si richiude un cerchio, è che la Marvel, che non devo presentare gli ascoltatori di questo spazio, ha annunciato che riprenderà le pubblicazioni dei fumetti di Conan il Barbaro, la creatura heroic fantasy di Robert Howard, nel 2019, dopo un periodo di quasi 20 anni. Si chiude un cerchio perché alla Marvel il Conan fumettistico era nato all'inizio del 1970 con un ciclo storico di storie che tra altissimi e qualche basso, con una qualità media che in realtà ha fatto scuola, ha definito il canone del Conan moderno, la rappresentazione visiva di Conan con alcune notevoli eccezioni, come le copertine dei romanzi di Howard, quindi diciamo del Conan letterario, firmate dal grandissimo Frank Frazetta, un nome diciamo imprescindibile dell'illustrazione e del fumetto del dopoguerra, è sostanzialmente il Conan fumettistico come messo a punto da John Buscema, uno dei più grandi autori Marvel di tutta la storia della Marvel. È l'immagine di Barbaro a cui si è ispirato per esempio John Milius per il suo Conan cinematografico, ed è un ciclo di storie semplicemente di migliaia, migliaia, migliaia, migliaia di pagine, lunghissimo, che ha avuto diverse incarnazioni, dalla serie regolare mensile, quella con cui il progetto è iniziato, a diverse altre serie collaterali, tra cui quelle in formato cosiddetto magazine, grandi, in bianco e nero, che sono tra l'altro, qui veniamo al riferimento che ho fatto prima, al centro di un progetto italiano che va avanti da un po' di tempo, che gli appassionati hanno ben noto, perché è la ristampa integrale da parte della Hachette, che è il ramo italiano, ovviamente del colosso francese, che in Italia è particolarmente forte in operazioni, diciamo, di merchandising legate a prodotti cartacei. In questo caso il progetto è la ristampa integrale della Spada Selvaggia di Conan, la traduzione di Savage Sword of Conan, che è una di quelle riviste storiche a cui accennavo prima, di grande formato, e che si è distinta tra l'altro in buona parte delle sue uscite per una qualità altissima, che gli americani chiamerebbero forse europea, dei disegni firmati dal già citato John Boucher, ma poi da un altro grandissimo uomo di stile, stavo per dire stilista, se non il termine in italiano non si riferisse principalmente alla moda, che era Barry Windsor Smith. Quindi un progetto editorialmente molto interessante, un integrale che mancava, addirittura 60 volumi, a cui con uno spirito, diciamo, che alcuni appassionati apprezzano molto, altri meno, ma qui si entra così nel metodo dei gusti, la Hachette associa una serie di prodotti di merchandising, tra cui la tazza, che ormai chiamiamo tutti mag, di Conan, ristampe di qualità da collezione, una t-shirt e così via, quindi un progetto commerciale integrato di buona qualità, va detto, intorno a una parte consistente e storicamente e fumettisticamente molto importante della produzione di Conan. E nel 2019, perché non sappiamo altro per ora, non è stato detto nulla, vedremo come sarà la nuova produzione Marvel, che diciamo è la mamma storica del Conan fumettistico, annunciata in questi giorni e che tra un anno arriverà alle stampe. Questo era Andrea Plasti interpellato da Michele Pompei sulle nuove iniziativa editoriale della Marvel. Quindi Fumetti a Sinistra, Un mondo dentro i balloon, in qualche modo ricostruisce striscia dopo striscia la storia del fumetto ieri, oggi e domani, sperando di capirci qualcosa di più e sperando soprattutto di avervi fatto passare una mezz'ora interessante. Con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare su